Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Buongiorno a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dalla parte degli altri animali. Siamo arrivati alla puntata numero 493, nella quale parleremo di falsa scienza, tigri ribelli, maschi con le corna e liberazioni equine. Ci rinfrescheremo sorseggiando molta buona musica e assaggeremo una ricetta buona, davvero, con tutti. Speriamo di avervi incuriositi. Te trouvais bien trop laide, peut-être que moi je suis trop bête. Mais je sais t'écouter. Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années. Et voilà, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Come avevamo annunciato qualche puntata fa, sta per essere avviato un esperimento scientifico che noi troviamo agghiacciante. Un gruppo di 6 macachi verranno resi parzialmente ciechi attraverso un'operazione al cervello. Questi animali, che godono di ottima salute, anche se purtroppo sono nati e vissuti sempre da prigionieri, in gabbie, a disposizione dell'uomo e dei suoi esperimenti, verranno menomati per poter essere poi in vario modo studiati e per testare alcune cure. Questo progetto, che ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero della Salute e 2 milioni di euro di finanziamento dalla Comunità Europea, durerà 5 anni, al termine dei quali i macachi verranno in qualunque caso uccisi. Sabato 6 luglio scorso, centinaia di persone aderenti a svariate sigle animaliste hanno sfilato in corteo a Parma per chiedere di revocare l'autorizzazione alla sperimentazione sui macachi. Le associazioni si rivolgono in particolare alla ministra della Salute Giulia Grillo affinché interrompa il progetto e affidi gli animali a centri di recupero specializzati. La nostra corrispondente Roberta Marino era a Parma a manifestare e a intervistare per noi Giovanna Tarquinio dell'associazione LEAL. Allora, sono con Giovanna Tarquinio, responsabile della sezione LEAL di Cremona. Però oggi siamo a Parma e siamo qui per che cosa? Perché c'è una manifestazione a seguito di altre iniziative precedenti per poter manifestare tutto il nostro dissenso nei confronti della ministra Grillo per il finanziamento di 2 milioni di euro per una ricerca su 6 macachi, animali sani, che verranno utilizzati per degli esperimenti assurdi e anche scientificamente non daranno nessun tipo di risposta valida per quanto riguarda poi la traslazione dall'animale all'uomo, per un discorso di studio di cecità dovuto a seguita da varie cause come ad esempio un trauma, per cui questi animali saranno sottoposti ad interventi chirurgici per poter influire sulla corteccia cerebrale e rendere una parte del cervello o destro o sinistra in modo da renderli praticamente nelle condizioni di un cieco a seguito di un trauma o di una causa. E la cosa più terribile è che alla fine di 5 anni questi animali saranno profondamente debilitati, poi sono anche tenuti in condizioni veramente terribili, ingabbiati, costretti a un'immobilità che è una cosa veramente già di per sé dolorosa, e alla fine di tutto li dovranno sopprimere. La LEAL insieme ad altre associazioni si sta muovendo contro il ministro Grillo, appunto. tipo di risposta c'è stata? Ma per adesso, per adesso c'è la possibilità di una sorta di apertura sulla quale noi contiamo molto, di avere un incontro a Roma prossimamente a un tavolo intorno al quale si metteranno dei rappresentanti scientifici per discutere e per far capire alla ministra quali sono le ragioni scientifiche per cui noi contrastiamo, ma non solo questi esperimenti, perché i macachi ne sacrificano a centinaia, ma in quanto questo per noi è un po' come un input, una concausa che mette in discussione però tutta la sperimentazione. Il grande Kim Booth, il nostro fondatore, mi fece un esempio che da loro ho memorizzato. Se tu hai una calcolatrice, fai i conti e ti accorgi che i conti non tornano, ti fidi di quella calcolatrice? Noi dobbiamo rigettare una scienza che, chiamarla scienza è già un parolone, è un metodo ottocentesco che non ha nulla a che vedere con la pura, la scienza non è violenza, la scienza deve fare i conti con la moralità, con la coscienza e con la responsabilità di quello che fa. We passed upon the stair, we spoke of what and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I left and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. Gaze to gaze, they stare at all the millions there. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Seconda notizia della settimana la prendiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno.it dello scorso 4 luglio. Tragedia annunciata nel mondo del circo. Questa volta la vittima è un domatore sbranato da 4 tigri in un circo attendato in provincia di Bari. La vittima si chiamava Ettore Weber, aveva 62 anni ed era considerato uno dei migliori domatori del nostro paese. Stava portando in giro per l'Italia la formula Animal Park, che nella locandina era definito come un viaggio socio-educativo tra gli animali dei 5 continenti. Ma ci chiediamo che cosa ci può essere di educativo nel sottrarre gli animali al loro habitat, facendoli vivere, costretti a esibirsi in attività completamente innaturali, soltanto per il nostro lucro e divertimento. Il collega circense Livio Togni, erede di una delle più famose famiglie circensi italiane, se la prende con le grandi difficoltà economiche nelle quali sono precipitati i circhi italiani. Weber, sostiene Togni, stava addestrando 4 bestie nuove, avrebbe dovuto avere l'assistenza di un giovane che fuori dalla gabbia controllava la situazione per sicurezza, ma il personale costa e lui, poverino, era da solo. Queste sono le parole testuali di Togni. Cerchiamo di capire che fine faranno le tigri che hanno ucciso il domatore. La Procura della Repubblica di Bari ha disposto il sequestro di tutte le 8 tigri di proprietà della famiglia Weber, che sono state trasferite allo zoo safari di Fasano. Lo zoo di Fasano però ha espresso la sua impossibilità ad accogliere questi animali, che dunque attualmente sono detenuti all'interno dello stesso mezzo che era adibito per il loro trasporto, quindi una specie di carrozzone di circa 20 metri quadrati. piazzato in un'area dello zoo. La LAV ha offerto di accogliere tutti gli 8 animali presso Primadomus, una realtà internazionale all'avanguardia nel recupero di animali esotici e nella gestione di grandi felini e di primati, che si trova in Spagna. La necessità di trovare una sistemazione per gli animali, dice la LAV, è una triste consuetudine che si ripete ogni volta che animali esotici vengono sottoposti a sequestro, anche nel caso di maltrattamento. Ma il danno veramente irreparabile consiste nel sottrarre animali al loro habitat o farli nascere condannati alla cattività, rendendoli poi inadatti a un ritorno in natura. Per questo l'associazione LAV chiede che l'Italia segua l'esempio degli oltre 50 paesi che in tutto il mondo hanno già deciso di vietare l'uso degli animali nei circhi. Il ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, infatti, aveva già espresso la sua volontà di togliere gli animali dai circhi, perché, parole del ministro, non hanno niente a che vedere con la cultura. Noi, assieme alla LAV e assieme a tutte le associazioni realmente animaliste, chiediamo alle forze politiche di approvare la legge delega e il relativo decreto legislativo per la completa dismissione, in tempi brevi, degli animali dai circhi. Sul versante delle best practice segnaliamo il circo tedesco Roncalli, che è sempre all'avanguardia già dagli anni 90, quando prima di chiunque altro rinunciò all'uso di animali selvatici nei suoi spettacoli. Da un anno il circo Roncalli, fondato nel 1976 da Bernard Paul e André Heller, ha scelto di sostituire tigri, elefanti e cavalli con veri e propri ologrammi. Grazie a 11 proiettori collocati intorno alla pista, gli animali prendono vita e si esibiscono in evoluzioni straordinarie e realistiche assieme agli artisti, agli acrobati e ai giocolieri. In questo modo, la direzione del circo Roncalli ha preso una posizione netta circa l'utilizzo degli animali all'interno dei numeri circensi, da tempo messa in discussione per gli aspetti etici legati al loro sfruttamento. This is all you get. This is what you get when you mess with us. I residenti della Florida sono ufficialmente invitati dal governo a uccidere più iguane possibile. Sembra infatti che le specie non originarie della zona si stiano moltiplicando rapidamente grazie al clima caldo estremamente favorevole e al fatto che le femmine arrivano a deporre 80 uova l'anno, causando gravi danni. Sebbene non siano pericolose o aggressivi con gli umani, sembra che siano però portatrici del batterio della salmonella, oltre a essere formidabili scavatrici di gallerie che danneggiano la pavimentazione delle strade e le fondamenta degli edifici con rischio di crolli e cedimenti. Ecco allora che arriva l'invito dall'agenzia statale responsabile della fauna. Non servono permessi per uccidere le iguane sulle vostre proprietà, anzi si incoraggiano i residenti a farlo nel proprio terreno e nelle aree pubbliche ogni volta che sia possibile. Le specie in questione provengono dal centro e dal Sud America e arrivano in Florida tramite nave, spesso inavvertitamente o portate di proposito come souvenir dai turisti di ritorno dalle vacanze. È infatti permesso tenere le iguane come animali domestici, ma non sono protette da alcuna legge, se non quella che proibisce la crudeltà contro gli animali. Noi dedichiamo il nostro spazio musicale all'iguana del rock, Iggy Pop. Dalla colonna sonora del film Good Time lo ascoltiamo con The Pure e The Damned, il cui video, per chi bazzicherà la Biennale di Venezia, potrà vederlo all'interno di un'installazione. Ha avuto inizio il 6 luglio scorso la tradizionale festa di San Firmino, celebrata nella capitale della regione spagnola di Navarra, Pamplona. E come sempre fioccano sui social le immagini impressionanti della classica corsa dei tori, particolarmente pericolosa per gli uomini e per gli animali. Nel Medioevo i pastori arrivavano a Pamplona attraverso le praterie della Navarra e si avvicinavano alla città poco prima dei festeggiamenti insieme ai loro tori, che avrebbero poi dovuto prendere parte alla corrida. Per chiudere però i tori nei recinti, da qui il nome della festa Encierros, che significa chiusi, i pastori si facevano aiutare dai presenti nelle strade, perché trattenere animali così grandi e forti, facendogli fare quello che non vogliono, non è semplice. Oggi però, per 7 giorni consecutivi, alle 8 del mattino a Pamplona, i tori vengono liberati tra le urla di una folla, quasi interamente maschile, che invece di camminargli dietro, si mette davanti ai tori, facendosi volontariamente inseguire, sapendo molto bene di mettersi in pericolo. L'adrenalina dei partecipanti consiste proprio nel correre di fronte ai tori, sperando di essere più veloci e capaci di schivare le loro cornate, scansandole al momento giusto. Al di là della pericolosità dei tori, il fattore di rischio è anche la spericolatezza dei presenti, migliaia di uomini in preda all'adrenalina e a volte all'ubriachezza. Dal 1910 al 2009, 16 persone hanno perso la vita durante l'Encierros. Più alto è il numero dei feriti, che negli ultimi 40 anni sono stati più di 1300. C'è chi cade, chi viene incornato, chi viene spintonato o travolto dalla corsa. Negli anni è anche cresciuto un dibattito pubblico critico verso questa manifestazione. Anche quest'anno a Pamplona, poco prima del lancio del razzo che annuncia l'inizio della festa, ci sono state manifestazioni animaliste scenografiche che hanno denunciato la gratuita crudeltà delle corride. Alcuni coraggiosissimi attivisti sono anche saltati dentro l'arena durante una corrida, nel primo giorno del Festival di San Firmino, per portare davanti alle telecamere il loro gesto di solidarietà al toro. Il bilancio per il momento è di 5 persone ferite, come riporta El Mundo, durante il primo encierro. Un 23enne del Kentucky e uno spagnolo di 40 anni sono stati colpiti alla coscia. due giovani spagnoli hanno riportato ferite alla testa e un uomo di 46 anni di San Francisco è stato incornato al collo ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ci sono tradizioni e tradizioni. Nel corso della storia più volte siamo riusciti ad evolverci abbandonando usi che a un certo punto abbiamo considerato violenti e disumani. Altrimenti staremmo ancora a guardare i leoni sbranare i cristiani nelle arene. Cosa ci impedisce allora di dire basta all'orrore dell'ensierro di Pamplona? Noi sinceramente preferiamo altre tradizioni di quella splendida terra, come ad esempio le paparacotes, per godere delle quali non deve soffrire nessuno. Ecco a voi la ricetta di questo originale dolce spagnolo di influenza araba. Gli ingredienti per 4 persone sono 25 foglie di limone biologiche, 150 g di farina, 150 ml di latte vegetale non aromatizzato, un cucchiaio di farina di ceci, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 5 g di cremor tartaro o lievito per dolci, un pizzico di curcuma in polvere, della cannella, 50 g di zucchero di canna, un limone e olio per friggere. Lonely in Barcelona, then someone told you, and you cheered, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter. Lavate le foglie di limone e lasciatele asciugare. Nel frattempo preparate una pastella. In una bowl unite il latte vegetale e l'olio extravergine. Aggiungete la scorza grattugiata di mezzo limone, un pizzico di cannella, la curcuma e un pizzico di sale. Setacciate la farina, il cremor tartaro e la farina di ceci e unitele alla pastella, mescolando con una frusta. Scaldate l'olio per la frittura, mettendo all'interno l'altra metà della scorza di limone. Quando l'olio sarà ben caldo, togliete la scorza, immergete le foglie di limone nella pastella, fate colare quella in eccesso e fate friggere fino a quando saranno ben dorate su entrambi i lati. Scolate e fate asciugare su carta per frittura. Mescolate lo zucchero di canna con un mezzo cucchiaino di cannella in polvere, passate le foglie fritte nello zucchero aromatizzato e servite. Prima di mangiare questa profumatissima delizia, abbiate cura di togliere la foglia all'interno che non deve essere mangiata. Then someone told you, and you cheered. Con le temperature salite fino a 40 gradi, sui social ci è capitato di intercettare video che denunciavano cavalli costretti nelle città d'arte a trascinare i turisti sotto il sole nelle ore più calde e afose, sudati, tremanti e con la schiuma alla bocca. Per loro, però, finalmente potrebbe essere arrivata una svolta. In commissione trasporti, infatti, dove si discute la riforma del codice della strada, le deputate Patrizia Prestipino del Movimento 5 Stelle e Federica Zanella di Forza Italia hanno presentato e fatto approvare un emendamento che vieterebbe le carrozzelle trainate dai cavalli nelle città. Il percorso parlamentare è ancora lungo, ma il punto fermo è stato messo a favore del benessere dei cavalli. Sarà tuttavia ancora possibile condurre le carrozzelle nei parchi, nelle riserve naturali o anche in città, ma solo in caso di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, culturale, storico e di tradizione popolare. Le licenze verranno convertite dai comuni in altri titoli autorizzativi per servizi taxi e di noleggio con conducente. L'unione delle donne fa la forza anche degli animali, ha affermato Prestipino. Tuteliamo così la sicurezza e il benessere degli animali utilizzati per il trasporto di piazza, ma anche l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale, garantendo al tempo stesso l'occupazione per gli operatori del settore. Il provvedimento, richiesto a gran voce da tanti cittadini e associazioni di settore, sarà in aula già la prossima settimana per l'approvazione in prima lettura. Questo orientamento a livello nazionale ha avuto anche una ripercussione sulla nostra capitale, Roma. L'assessore ai trasporti di Roma, ancora una volta una donna, Linda Meleo, ha apprezzato l'approvazione dell'emendamento in commissione sulle botticelle e si è impegnata a portare la stessa proposta in aula capitolina. Potrebbe essere la volta buona per liberare tanti cavalli da una insopportabile schiavitù, dando ai vetturini la possibilità di convertire la propria licenza in servizio taxi. Saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e dalla voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, che è quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 494 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.